Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La peggiore sparatoria nella storia degli Stati Uniti, il peggiore attentato sul suolo americano dall'11 settembre 2001. La strage al Pulse di Orlando si scrive da sola nei libri di storia a stelle e strisce, con quel drammatico bilancio di 50 morti e 53 feriti. Un attacco contro la nazione, un attacco, nelle parole di Barack Obama, contro tutti noi. Le indagini proseguono nel passato e nel presente di Omar Saddiqi Mateen, il terrorista 29enne nato a New York da genitori afghani, musulmano, instabile, violento e con un problema di gestione della rabbia nelle parole dell'ex moglie. Lui, prima della strage, con una telefonata ha rivendicato la sua fedeltà all'ISIS. L'ISIS, dopo la strage, lo ha definito un nostro guerriero, ma si scava per capire tempi e modalità della sua radicalizzazione, se l'ISIS lo abbia addestrato, finanziato, guidato o solo ispirato. La seconda ipotesi sembra più concreta agli investigatori, che sono certi abbia agito da solo. Passerà ancora del tempo perché si possa avere qualche notizia più certa su quello che è accaduto la scorsa notte nel Pulse, un locale di Orlando dove c'era una festa, un locale LGTB, cioè un locale dove andano gay o comunque simpatizzanti dell'idea della libertà di espressione della propria sessualità, della propria emotività, della propria affettività, secondo le forme che uno meglio creda. Il personaggio in questione è andato a colpo sicuro, sapeva esattamente che lì dove colpiva, colpiva bene, almeno nel suo quadro. Ci si interroga oggi se sia un episodio adducibile a un'instabilità mentale. Era una persona aggressiva, aveva delle crisi di rabbia, ma chi è che non ha crisi di rabbia? Non basta una crisi di rabbia per fare una strage. Era una strage ispirata sicuramente a un principio ideologico superiore. Tutte le stragi, grandi stragi, si rifanno sempre a un ideale, e oggi l'ideale che più facilmente un ragazzo di origine afghana, con il padre anche impegnato politicamente, che aveva partecipato comunque dagli Stati Uniti alla vicenda politica afghana, è facile che sia quello il suo modo di riferimento, il suo mondo di riferimento. Come è accaduto, ma l'avrete visto su tutti i giornali oggi, è entrato armato fino ai denti con un fucile da guerra, d'assalto, un AR-15, una pistola, ha cominciato a sparare, ha preso degli ostaggi, mentre sparava con la musica a palla, musica hip hop latinoamericana di vario tipo, la gente faceva festa, era una serata di fine settimana, si divertivano, non c'era niente di strano, niente di male, e molte volte come accade al Bataclan a Parigi, la gente perde il senso nella musica di qualcuno che stia sparando, e gli spari sembrano far parte dell'effettistica, della trance, della serata, della gioia, comincia a sparare. Quello che riportano i giornali con maggiore meticolosità sono i messaggi delle vittime, che già sapevano sarebbero state uccise, che si rifugiavano in varie parti, nei bagni, negli sgabuzzini, e sapevano che lui stava arrivando. È una cosa da film dell'orrore. I messaggi oggi, a volte disperati, a volte senza speranze, queste persone fanno parte di questa notizia. Notizia che ha vari aspetti, li analizzeremo tutti per quanto possibile, ma quello che più ci interessa è sapere cosa vi siete fatti voi di idea rispetto a questo episodio, che è un episodio che accade lontano, ma sono tutti degli elementi vicinissimi per cui sentiamo anche noi di far parte di questa tragedia. 800240024, tra poco. Melog, cronache meridiane. Mi rendo conto che parlare di un argomento che oggi empie le pagine dei giornali, e immagino che per giorni e giorni sarà l'argomento portante di tutte le letture, di tutte le interpretazioni, tutte le possibili chiavi che presenta, è abbastanza singolare. Però, visto che in questo momento non ne trovo altri che galleggino in maniera così potente dell'immaginario generale, voglio parlare della strage di Orlando. La strage di Orlando si presenta sotto vari punti di vista e sotto vari approcci. È la più grande strage in America, ricordo oggi Vittorio Zucconi, che sono 150 anni dai tempi della guerra di secessione che non c'è una strage simile negli Stati Uniti. Quindi si apre tutto il dibattito sulla libera vendita delle armi, sulla possibilità di arginare l'armamento individuale negli Stati Uniti. D'altro punto di vista c'è il palese tema di base di tipo sociale che la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, al di là di tutte le battaglie vinte e delle libertà conquistate, comunque il bersaglio è ben preciso, ha colpito una categoria di umanità che è stata colpita per la propria dichiarazione di appartenenza, delle scelte di vita, di affettività, di relazione. Terza, e forse probabilmente meno importante, è l'aspetto mediatico. Gli SMS dei ragazzi che erano chiusi nei bagni, che comunicavano con la famiglia, verranno e mi uccideranno, grande elemento emotivo, sembra che sia una grande sorpresa, ma è chiaro, ognuno di noi oggi ha una periferica di comunicazione individuale, quindi la usa, quindi in un momento fatale la usa e rimane traccia di questa sua possibilità disperata di lasciare un'ultima traccia mentre sta arrivando qualcuno che potrebbe ucciderlo. E l'aspetto che invece popola i titoli dei maggiori quotidiani d'Italia è l'aspetto legato al terrorismo islamico. La firma dell'ISIS, titola la Repubblica, ma anche gli altri giornali. Il protagonista di questa strage è un ventenne di origine afghana, dicono i titoli dei giornali, dichiarato fedeltà al califfo, e quindi probabilmente ci può essere un non ancora certificato e tracciato legame tra questa strage e qualcosa di cui parlava un nostro ospite ricorrente molto spesso, e sono gli attacchi a Sciame. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini, ricordo, esperto di marketing e comunicazione strategica, autore di vari libri, tra cui però ISIS, il marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi, che è il primo libro che ha determinato e analizzato una strategia mediatica nel terrorismo di matrice islamica, chiamiamolo così per dire un termine comprensibile a tutti. Il tuo punto di vista, la tua analisi, innanzitutto Bruno, da quello che si legge nei giornali, naturalmente nessun elementi particolari di giudizio su questa cosa qua. Ma è stato rivendicato apparentemente dall'ISIS, ma io non credo che l'ISIS in questo momento abbia nulla da rivendicare, perché sono ovviamente in difficoltà, sono stretti, accerchiati e sotto attacco anche in Libia, cosa che i nostri governi fanno fatica a raccontare, perché la Libia è spaccata in due e chi sta agendo non sempre ha le simpatie della NATO. Allora il discorso è questo. Hanno sparato come a Parigi, sul mucchio, hanno trovato un posto dove poter fare molte vittime, ma non è l'ISIS, è un pazzo maniaco che, come al solito, complice la libertà di commercio delle armi che c'è in America, si è armato di tutto e ha fatto il suo banchetto. Fine, tutto qui, cioè non c'è niente di drammaticamente diverso da altre stragi. Quindi non ha nulla a che fare con quelli che molte volte abbiamo definito gli attacchi a Sciame, comunque hanno un loro disegno e una loro organizzazione, anche se da remoto e non necessariamente legata a sistemi tradizionali di coordinamento terroristico. Questo è un lupo solitario, l'attacco a Sciame sono diversi lupi solitari che agiscono in punti diversi di una città o di una regione o di una nazione, quindi diciamo era slegato totalmente da qualunque cellula. E sì, hanno detto che era di origine afghana, ma questo non vuol dire assolutamente niente, cioè siamo all'interno di una società multirazziale, piena di tensioni, un paese che è al collasso sempre imminente per motivi economici, con un tasso di disoccupazione più alto di quello che appare, e questi episodi sono quasi la norma, cioè sono talmente frequenti che non fanno quasi più nemmeno notizia, questa volta per via delle 50 persone. Ci sono tante. Senti Bruno, mi viene in mente molte volte, in episodi del passato innumerevoli di serial killer, di assassini, di persone che compiono, anche se non stragi di questa rilevanza, comunque delitti efferrati, c'è sempre la persona che la fa in nome di qualche dio, di un dio, di un ideale, via dicendo. Sarà che in questo momento, diciamo, l'idea circola talmente forte, talmente tenacemente e talmente diffusa nei social network, nella rete, che le menti deboli o le menti predisposte possono appigliarsi tranquillamente anche a questo elemento motivante forte, senza che necessariamente corrisponda a un disegno? Sicuramente sì, abbiamo visto quanto funzioni la rete come amplificatore, purtroppo, perché ci si trova tutto e il contrario di tutto, quindi è facile che anche una una mente debole o un maniaco trovino la giustificazione per i loro gesti o quelli che avrebbe, i gesti che avrebbero voluto attuare ma che fino a quel momento non hanno avuto il coraggio, proprio per emulazione. Questo è un grande problema che ripropone poi la questione della censura in rete, della libertà di parola, eccetera. Tanto in rete si trova di tutto, anche come confezionare ordigni. Però in questo caso ha toccato un punto che non era stato toccato fino adesso, a parte le esecuzioni di omosessuali all'interno del califfato, dello Stato Islamico, e cioè l'odio profondo, il disprezzo e la condanna che un po' tutti i musulmani hanno verso l'omosessualità. Non che i cattolici non ce l'abbiano, intendiamoci, però non arrivano, ad esempio, in alcuni paesi come nostro alleato Arabia Saudita a condannarli a morte. Poi ci sono state le esecuzioni esemplari, il particolare tipo di supplizio studiato per gli omosessuali, che li buttano dagli edifici, li buttano. Mi sembra che questo sia diciamo il tipo di pena che viene somministrata alle persone ree di essere omosessuali. Da un punto di vista proprio di strategia, adesso mi si perdoni il cinismo, ma di rafforzamento del brand, come si chiama nel tuo campo di lavoro un episodio del genere? Tu hai creato comunque una campagna, hai fatto alcune campagne mirate, quindi hai fatto girare degli spot, hai fatto girare degli slogan, insomma hai rafforzato il tuo brand, come abbiamo più volte visto ha fatto l'ISIS attraverso le sue campagne mediatiche in rete. Accade un episodio del genere senza che tu faccia nessuna fatica, nessuno sforzo, in qualche maniera comunque rientra perfettamente nelle tue modalità, perché l'ha fatto in nome del califfato, l'ha fatto in nome comunque di un'ideologia, l'ha fatto contro un bersaglio ben preciso che tu manifesti come un tuo diciamo competitor o elemento comunque con cui devi fare i conti. Ecco, nel campo della strategia, visto che l'ISIS l'ha subito rivendicata, naturalmente, come si chiama questo tipo di meccanismo, di fenomeno? Dunque, questa è una doppia valenza. Da un certo punto di vista è una demo, quella che noi chiamiamo demo, una dimostrazione di marca, non tanto di prodotto, di marca. Cioè una campagna istituzionale per riaffermare dei valori della marca, tra cui la condanna dell'omosessualità. Dall'altra, è una campagna sociale, educativa. Se vogliamo essere ancora più cinici, è uno spot di educazione del musulmano all'intolleranza verso i gay, come è prescritto dalle scritture, senza mezzi termini. Una campagna nello stile anglosassone, brutale, dove ti dimostro quello che dovrebbe essere, cioè i gay li vogliamo morti, i gay non devono esistere, i gay devono essere annullati. Ora, l'Islam, secondo me, deve urgentemente mettere mano a una riforma. Non lo dico io, lo dicono molti islamisti, la parola poi islamista non significa radicale islamico, ma studioso di Islam, rimettiamo le parole al loro posto. E quindi è urgente anche su questo piano, sul piano dell'aggiornamento della dottrina, che il cattolicesimo ad esempio ha fatto, mentre l'Islam no, e questo è un grosso problema. Per questo dico, può accadere un episodio del genere che in fondo porta acqua diciamo al mulino dell'estremismo, senza nessun tipo di sforzo o di organizzazione militare. Comunque accade qualcosa sul quale poi puoi rafforzare la tua campagna o puoi rafforzare il tuo marchio. Assolutamente sì, le campagne sociali, le campagne di utilità sociale sono educative, hanno uno scopo educativo, e quindi qui volendolo prendere come uno spot, aveva come platea tutti i musulmani, diciamo, radicali, e ricordandogli una property della marca, una mission che non tutti hanno ben chiara, o stando in Occidente eventualmente si dimenticano, che è quella dell'intolleranza verso il diverso, soprattutto in termini di genere. Sarebbe importante in questo momento che non soltanto l'Islam, ma il mondo intero rafforzasse comunque un messaggio di civilizzazione di fronte a episodi del genere, senza magari darsi gomito sotto sotto e dire beh sì, in fondo sai com'è, stanno esagerando, dobbiamo mettersi meno in vista, perché già immagino e suppongo che discorsi del genere in circolo molto ristretto e con grande e sommessa prudenza saranno comunque fatti. Ti ringrazio molto Bruno, a presto. Grazie a voi. Noi ci fermiamo soltanto un istante dopo aver sentito Bruno Ballardini. Diamo la linea al traffico, poi mi piacerebbe sapere qual è l'effetto che hanno fatto nel nostro pubblico le parole di Ballardini rispetto a una lettura più specifica su questo aspetto della strage di Orlando. 800 24 0024. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog, cronache meridiane. All'inizio era una persona normale che aveva a cuore la famiglia, amava scherzare e divertirsi. Ma pochi mesi dopo il nostro matrimonio ho notato la sua instabilità, era bipolare, si arrabbiava per nulla. È lì che ho cominciato a temere per la mia sicurezza. Dopo qualche mese ha iniziato ad abusare di me molto spesso. Mi impediva di parlare con la mia famiglia, mi teneva in ostaggio. Ho provato a vedere il buono che era in lui, ma alla fine la mia famiglia ha deciso di venirmi a prendere per salvarmi da questa situazione. L'episodio di Orlando non ha soltanto una chiave di riflessione, ne ha molteplici. Improvvisamente si vengono alla luce anche aspetti legati alla società, legati alle norme, legati alle tradizioni, legati alle incongruenze, comunque una società in via di evoluzione, che emergono proprio a seguito di questa strage. Stanno uscendo adesso le proteste della comunità LGBT americana, parla John Paul Brammer, che è un portavoce anche latino, non dimentichiamo che le vittime sono, oltre a essere gay, anche latinos, quindi sono doppiamente esposti come categorie discriminate, e sottolinea il fatto che il paradosso che in questo momento molti vorrebbero dare sangue, visto c'è bisogno di sangue per i feriti di questa strage, molti della loro comunità, ma un ordinamento della Food and Drug Administration proibisce alle persone gay di dare sangue, a meno che non dimostrino che nell'ultimo anno non hanno avuto rapporti e via dicendo, una sorta di attestato di castità per poter dar sangue, e questo viene considerato un elemento di discriminazione. 800 24 0024. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, innanzitutto grandi complimenti per lei, non è mai banale nelle sue trasmissioni e riflessioni. Su questo fatto, io dico che qui c'è una sottovalutazione in atto, cosa devono fare ancora? Nel senso che sono caduti imperi sulle sottovalutazioni. Dal 1924 al 1928 i fratelli musulmani hanno scritto esattamente qual era il disegno dell'Islam politico. Dopodiché ci sono state le stragi un po' ovunque, c'è stata tutta la storia dei palestinesi, israeliani, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo l'ISIS. Anche se l'ISIS non c'entra direttamente con questa strage, sicuramente la radicalizzazione degli islamici di seconda generazione, come abbiamo visto anche nelle banlieue parigine, è una cosa di grandissimo allarme, perché loro sfruttano le nostre libertà democratiche per fini di altro genere. Beh, ecco, quello che più o meno abbiamo detto poco fa con Ballardini, facendo un discorso, visto che lei mi riconosce di cercare sempre delle letture che non siano quelle più semplici, da un certo punto di vista, visto che mi piaceva analizzare il problema all'inizio con Ballardini un anno e mezzo fa, che siamo stati i primi forse da questo punto di vista, come una grande campagna di promozione di un marchio da promuovere, da diffondere e da divulgare, mi piace capire in questa fase cosa significasse. Significa a un certo punto che la campagna è andata talmente bene, una campagna verso l'irrazionalità, che appunto elementi che hanno già delle tendenze a scelte irrazionali, adesso non vogliamo fare delle diagnosi a distanza e arrogarci titoli che non abbiamo, però una persona che improvvisamente viene fuori che è una persona instabile, è una persona donna molto facilmente impressionabile. Addirittura il padre dice sarà accaduto perché è rimasto male a vedere due uomini che si baciavano, una persona che vede due uomini che si baciano e pensa che sia possibile poter fare una strage, già un elemento in più. Quindi prendo atto di quello che dice lei, che c'è da essere un allarme, un'attenzione, e mi sembra scontato, ma prendo l'occasione di questa tristissima e tragica vicenda per fare anche altre riflessioni. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Salvatore. Salvatore non c'è. Paolo. Buongiorno. Sì. Niente, io volevo solo dire che molto probabilmente la cassa di risonanza dei media, eccetera, crea poi emulazione, diciamo, su questi fatti. Ecco, io sarei un po' contrario a dare certe notizie, perché se non vengono, cioè non voglio mettere il bavaglio alla stampa assolutamente. Cioè, scusi, no, Salvatore, uno ammazza 50 persone in un locale, bisognerebbe non dare rilevanza alla notizia, no, solo per capire. Io c'è tutti i punti di vista, però voglio capire cosa c'è dietro un pensiero. Fare finta di niente, perché sennò c'è l'elemento di emulazione, non so. Sì, sì, per conto mio in un mondo come questo viene crea emulazione che porta poi a... Però a me piace riflettere, Salvatore, mi scusi, lei si rende conto che oggi... ammesso che io me ne rendo conto, ma lui è il suo pensiero, ma oggi non c'è più un sistema che dà certe notizie, oggi le notizie comunque emergono, i ragazzi che stanno lì e molti sono stati uccisi mentre accadeva l'episodio già avevano comunicato nei loro profili Facebook quello che stava accadendo. Oggi vedrà nei maggiori quotidiani italiani cominciano a apparire le foto delle vittime assieme alle loro disperate richieste d'aiuto che mettono su Facebook. Non siamo più in un mondo in cui c'è un solo padrone dell'informazione e basta che lui chiuda il rubinetto e decide se bene o male, con una sorta di idea di paternalismo nei confronti delle coscienze dei propri utenti, dei propri lettori, dei propri radioascoltatori, dei propri utenti televisivi. Oggi il mondo racconta se stesso a tempo reale, di questo dovrebbe cominciare un po' a rendersi conto. Paolo, buongiorno. Paolo ha parlato. Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno. Premesso che io vivo in un paese musulmano. Dove? Io vivo a Zanzibar, perché è un paese del 95% musulmano e 5% di cristiani. Io dico, da buon conoscitore dell'Islam e dei loro addetti, che il fatto che se ne parli in maniera pesante, molto, questo non aiuta il fatto, perché è un conto dare la notizia, è un conto che si ripeta sui giornali per i prossimi 10 giorni e in televisione è la stessa cosa. Questo aiuta soltanto a pensare che chi sa con l'ISIS fa bene poi. No, aspetti, no, mi interessa, lo sa perché mi interessa? Perché io do molto affidamento ai flussi delle telefonate, siccome do spazio agli ascoltatori, me li sto coltivando, quindi quello che accade percentualmente in questa trasmissione è un po' esemplificativo di un sentire comune. Ho questa ambizione. Le prime due telefonate sono due persone che la prima riflessione che viene fare loro su questo fatto è dire una campagna stampa di racconto potrebbe fomentare ancora di più che era ancora il rischio che si ripeta. È questo che pensa anche lei? Anch'io la penso così, specialmente vivendo in un paese, che sta dicendo, musulmano, dove quando succedono queste cose alcuni di questi sono contenti di quello che accade e si capisce parlando con loro. Ma io sono convinto che oggi saranno persone che brinderanno no, ma magari festeggeranno. Diciamo sono contenti. Sì, io contento. Vivo in un paese in cui un Islam moderato, però parlando con le persone, perché ci sto a contatto tutti i giorni, cioè ho 20 dipendenti e 19 sono loro. Che questa mattina lei cosa ha sentito serpeggiare comunque? No, io sto a Roma adesso e ritorno questa sera. Quindi non ha avuto modo di avere no, no, però lo so con altri fatti. Altri fatti che sono successi, la cosa che dicono, qualcuno dice ma non è cattiva questa cosa, è stata fatta bene. Però ma lei non crede che sia meglio che dispiace. Sì, io la capisco, perché il suo punto di vista lo sto capendo perfettamente. Ma la cosa viene a pensare, secondo lei non è proprio dovere di chi fa il mediatore di informazione non di nascondere le notizie, ma di fornire elementi di lettura profonda di queste notizie. Io oggi avrei potuto non parlare di questa trasmissione, c'erano altri argomenti molto più leggeri, molto anche più facili, più abbordabili, soprattutto parlare di questo tema di cui non si sa altro che quello che legge sui giornali, sembra un po' di pestare l'acqua nel mulino, però per me invece non ha avuto un senso, perché vedo che le reazioni sono quelle, perché ne parliamo? Ma siete veramente convinti che non parlarne servirebbe comunque a smorzare l'effetto, diciamo, propagandistico può avere un episodio del genere, o piuttosto bisogna parlarne con elementi di saggezza e di intelligenza? Questa è la domanda che faccio agli ascoltatori. Salvatore ha parlato? No, Salvatore, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno, Salvatore da Cosenza. Mi sente? Sì, sì, l'ascolto. Allora, innanzitutto ieri anche la moglie ha dichiarato comunque che questa persona era una persona instabile. Guarda, se sente mia moglie direbbe la stessa cosa, e il 90% no, delle mogli direbbero che i mariti sono instabili, capitano, e i miei mariti lo direbbero delle mogli, è abbastanza fisiologico. Va a uccidere le persone. Sì, ma di me normalmente dicono che sia una persona instabile, senza che io abbia mai avuto istinti omicidi, o perlomeno se l'ho avuti me li sono tenuti dentro. Io mi faccio una domanda, no? Ma perché dove inizia la libertà di una persona deve finire l'altra? Se due persone vogliono stare insieme, cosa dà fastidio? In nome di quale Dio, e io sono cattolico praticante, quale Dio vuol dire di uccidere un'altra persona perché è diversa? Ma penso e nessun Dio lo dice obiettivamente. E poi perché usare questa persona, cioè usare questa terminologia diversità? Cioè, se una persona una cosa dà fastidio, si gira dall'altra parte, punto. Non è giustificabile nessun tipo di gesto comunque a favore di qualsiasi forma di violenza. Lei, Salvatore, dice delle cose sagge, che una persona civilizzata ha conquistato attraverso un cammino di civilizzazione, appunto, che il nostro istinto sarebbe di sterminare tutto ciò che è diverso intorno a noi, perché profondamente, radicalmente siamo animali. L'essere civilizzati significa capire anche le ragioni degli altri, sapere riuscire a convivere anche con qualcosa che magari visceralmente ci dà un senso di disagio. Lei è civilizzato, probabilmente chi uccide 50 persone o chi fa campagne comunque discriminatorie, perché non dimentichiamo che campagne discriminatorie vengono fatte anche nel nostro paese, c'è stata una parte della politica che è stata fortemente discriminatoria, non è un pensiero civilizzato. Viva Salvatore, che è una persona civilizzata, vive con serenità, senza ideologie, questo tipo di problema. 800 24 00 24. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Mi lascio andare a quello che è il flusso delle opinioni delle persone che ci chiamano questa mattina, perché secondo me capire a caldo qual è l'impressione che fa le nostre latitudini, un episodio che apparentemente sembra molto lontano ma in realtà è vicinissimo, perché è speculare a quella che è la nostra vita quotidiana, tutto quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono d'accordo con lei che è vicino a noi. Io ero intervenuto per dire che il problema non penso che sia riferibile soltanto ai gay. Tant'è vero che vedo dai giornali quando sono state assassinate e bruciate le 9 donne l'altro giorno perché non volevano diventare schiave del sesso. Quindi per me è un problema, diciamo, fra quello che è la nostra civiltà e quindi l'ideologia o il sistema islamico, quindi è un problema di civiltà. E quindi io sono favorevole perché tutto questo si debba porre fine. Quindi è uno scontro di civiltà, non ce n'è. Io sono convinto che chiunque vorrebbe porre fine è capire se esiste una maniera per porre fine a un processo che comunque è già in corso, già in atto, è capillare e di cui la cui capillarità non è nemmeno così palese e manifesta. Siamo d'accordo, tutto ciò, qualunque etichetta noi ci vogliamo porre oggi, rappresenti una sorta di assolutismo che impone un sistema di vita, un modo d'essere, una maniera di pensare, è naturalmente antimoderno, è totalmente incivile, lontano. Ognuno può pensare quello che vuole, uno può chiudersi a casa propria e fare professioni di castità, di monogamia, di monosessualità, di amore per qualunque cosa pensi, purché non lo imponga agli altri, purché non faccia un atto di violenza. violenza, di imposizione. Quando un punto di vista religioso, con tutto rispetto per la religione, entra nei comportamenti altrui, diventa un sistema vessatorio, diventa un sistema odioso. Enrico, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti, mi ritengo fortunato di poter parlare con lei. Senza... Vabbè, adesso è bello che nella vita uno è preso a pesci in faccia dalla mattina alla sera dalle persone che c'è intorno, cioè scherzosamente. Poi parla alla radio, sembra che parla il Padre Eterno. Stia tranquillo, sono una persona come lei. Andiamo avanti. La questione, poi verifichiamo pure se è una persona come me. La questione è questa, che mi pongo e che le pongo. Cioè, sembra dai dati che sono stati annunciati via televisione, io ho seguito attentamente, sembra che siano passate circa 5 ore, da mezzanotte e mezza l'una fino alle 5 del mattino. In cui poi è stato diciamo, terminato dagli interventi. Sì. Dagli interventi. Io mi chiedo, una nazione con moderna come siamo noi, no? Anche perché pure noi commettiamo cose del genere, in 5 ore riesce solo ad ammazzare il tizio, riesce solo, io dico solo, perché immagini che valenza poteva avere nei confronti dell'ISIS questa persona viva che messa davanti alla gente poteva spiegare le sue ragioni. Guardi, evidentemente lei ha più cognizione di me sulle strategie di intervento contro uno stragista terrorista. Io penso che hanno agito corpi specializzati, e negli America ci sono questi corpi specializzati, hanno agito mentre è già in corso d'opera, cioè una persona senza scrupolo, dotato di armamento pesante, che poteva fare quello che voleva, era come mettere una faina in un pollaio. È un problema che mi sono posto, però io hanno usato un'analogia con il potere violento anche degli stati. Per esempio, noi riusciamo a parlare con gli immigrati e poi se quelli non agiscono a misura gli spariamo, mi spiego? Non è che veda l'ultimo fatto. Vabbè, un carabiniere è stato aggredito. Sì, ma lei ha saputo come è avvenuta la questione? Ho pochi elementi, se vuole ne parliamo in un'altra missione. Adesso però non volevo generalizzare non si arriva a nessun punto. Lei trova questo efficientismo mirato alla soppressione, io penso in questi casi quando uno ha ammazzato già 50 persone e fatto feriti, non credo si possa andare tanto per il sottile, lo scopo primario è mettere le condizioni di non nuocere più, su questo non credo di avere dei dubbi. Manuel, buongiorno. Nicoletti. Buongiorno. Sinteticamente io credo che il fatto di non volerne parlare del fatto di cronaca come le prime telefonate. Questo mi interessa, sì, questo è il punto che mi interessa. Credo che mi arrogo il diritto di pensare che sia perché è successo in seno come vittime alla comunità gay. Mi spiego meglio, per il Bataclan nessuno ha avuto da dire buona pace delle vittime che ne hanno preso che l'hanno preso in carico. Però se succede ad esempio un'altra cosa sempre a scapito dell'ISIS, di Boko Haram non ho mai sentito nessuno dire. No, lei ha fatto una riflessione molto giusta. Esiste un malcelato e in questo caso evidente, lei me l'ha evidenziato, senso di pudore, sono cose che è meglio non parlarne perché c'ha a che fare, diciamo, quella che viene considerata ambiguità sessuale, quindi argomento tabù. Matteo, chiudiamo, c'hai poco meno di un minuto, dai. Sì, Matteo. Piacere, Matteo da Pistoia. Sì. Io sono stato attivista gay, nel senso presidente di un'associazione, e ho lavorato anche in dei locali gay. Io non credo ci sia molta differenza nel pensiero di questa persona e quello che è il pensiero di alcuni politici nostrani o di alcuni personaggi che tentavano di entrare in questi locali per farsi due risate sostanzialmente. Matteo, la chiudo ma non la censuro. Sì. Legge esattamente, c'è un senso di disprezzo e discriminazione profondo che ha le punte estreme nel folle che spara e uccide, a punte più mascherate ma altrettanto insidiose e schifose nelle persone che vanno nei locali gay per prenderli in giro. Ne prendo atto, grazie, alla prossima.